to give a little. Indovina chi viene a cena. Take a little. Di Valentina Furlanetto. That's the glory of love. Buona serata, bentornati a Indovina chi viene a cena. Questa sera un gradito ritorno perché abbiamo con noi il regista Andrea Segre. Buonasera Andrea. Buonasera a voi. Da poco al cinema il tuo nuovo film I sogni del lago salato, che è stato anche a Venezia, a Locarno, e adesso è distribuito. Lo potete vedere in alcune sale italiane. Se cercate sul sito di Andrea Segre l'elenco proprio delle proiezioni, e sta andando anche molto bene, no Andrea? Queste proiezioni milanesi, mi diceva, stanno andando bene. Sì, milanesi, non soltanto, devo dire che lì dove il film trova uno spazio ottiene anche una bella risposta di pubblico. Chiaramente non è semplicissimo avere lo spazio per il cinema documentario, però negli ultimi anni stiamo crescendo, il pubblico ci segue ed è bello. Allora, prima di far sentire qualche sonoro proprio dal film, dal trailer di questo film, vorrei che ci raccontassi tu di cosa parla, perché è molto affascinante il trailer, però noi purtroppo non abbiamo l'aiuto delle immagini e quindi è un po' difficile riuscire a spiegarlo. Ci sono delle immagini fantastiche in questo trailer che vi consiglio di guardare, molto suggestive, di questo paesaggio kazako. Ma Andrea, di cosa parla questo film e perché il Kazakistan? Questo film è un viaggio nello spazio e nel tempo, è un viaggio in un luogo lontano che appunto conosciamo poco, ma che ha dei grandi fascini estetici in questo dialogo tra le steppe asiatiche, i cammelli che camminano da soli in questi spazi immensi, i laghi salati e poi però anche la presenza di un grande pezzo di iperfuturo, perché Astana è una capitale fatta di grandi grattacieli, un po' stile Dubai o Shanghai. È veramente un intreccio strano da un punto di vista estetico. Anche le persone sono strane, perché ci sono sia persone di origine mongola che persone di origine russa. Insomma, è un viaggio nello spazio, un luogo altro, ma diventa anche un viaggio nel tempo, perché mentre andavo in giro per il Kazakistan sentivo che loro stavano vivendo quello che aveva vissuto mia madre o mio padre negli anni 50-60, cioè l'azione del boom economico. E così ho iniziato a far dialogare questi due tempi utilizzando due archivi, l'archivio storico dell'ENI, dove ci sono dei documentari importantissimi su periodo di storia fatti da grandi registi come De Seta, Ferrara, Bertolucci e molti altri, e un piccolissimo archivio, l'archivio privato della mia famiglia, che ho scoperto nella cantina di mio zio e con alcune immagini di mia madre e mio padre in quegli anni. E allora sentiamo proprio il trailer di questo film I sogni del lago salato. Non c'era alcun motivo di tornare indietro. La modernità era ormai un sogno a portata di mano. Il progresso poteva finalmente regalare alle nostre famiglie ciò che per anni avevano tanto sognato. Scusate, quanto guadagnate? Qui guadagniamo 50.000 lire al mese. E vi trovate bene? Ci troviamo bene perché è un lavoro sicuro. E prima che cosa facevate? Prima facevamo io il manovale e lui il muratore. E quanto guadagnavate? 1.000 lire al giorno. Tutti i giorni no, perché quando c'era lavoro, quando non ce n'era lavoro andavamo in viaggio. Nella corsa verso il futuro sono tanti i giovani kazaki che cercano di lavorare per il petrolio, ma solo pochi ci riescono. Per loro la vita cambia davvero, come ad Aksai, una piccola città dove l'ENI e altre quattro multinazionali estraggono 400.000 barili di petrolio al giorno. Chi lavora per loro è a bordo del treno giusto e non ha il tempo di fermarsi a guardare indietro. Perché dovrebbe averlo? E perché dovrei chiederglielo? Perché stiamo parlando di questo film con te? Perché noi normalmente parliamo del tema dell'identità e della migrazione, ma mi aveva molto colpito appunto questo parallelismo fra il Kazakistan di oggi, una crescita dell'economia pari al 6% annuo, insomma l'Italia degli anni 60, del boom economico, e i ricordi della nostra povertà e quindi anche della nostra migrazione, o comunque anche pensavo a quanti italiani, e ce ne sono, che vanno in Kazakistan adesso, tu me lo confermi, no? Sì, è una migrazione molto diversa, sono appunto, diciamo, imprenditori, manager, ingegneri che vanno in Kazakistan. Anche giovani mi risulta che sì, cercano molti, fortuna. Molti. Sì, sì, sono giovani che sanno che lì, in quel pezzo di mondo in forte crescita, c'è la possibilità di fare business, insomma, questo è il motivo per cui gli italiani vanno in Kazakistan oggi. Che è diverso dal motivo per cui venivano gli italiani negli anni 50, però comunque conferma l'indole di un popolo che è pronto a spostarsi e che quindi deve essere anche capace di capire chi si sposta venendo. Tu hai deciso per quale ragione di fare questo viaggio e questo film di seguito? Questo viaggio è proprio nasce da un istinto, da un desiderio di dire lì c'è qualcosa che non conosco e che ho voglia di perdermi in quel luogo. E questo film poi nasce durante la preparazione di questo viaggio e nasce dall'urgenza dalla sensazione che la scrittura del futuro deve passare attraverso la consapevolezza di ciò che abbiamo schiacciato in nome del progresso. La sfida nuova dei prossimi anni che noi abbiamo capito e che in altri luoghi non si è capita, ma che però piano piano avanza, è quella di non affidarsi al progresso come una ruota che faccia tutto, che va avanti, che ti porta ad un'altra epoca, ma di capire come questa ruota possa interpretarsi con dei pezzi di passato, tra virgolette, che però possono reinvestire nel futuro. Può dirci lei, quale sindaco di Gela, che cosa ne pensano i suoi concittadini del ritrovamento del petrolio? I miei concittadini sono orgogliosi del ritrovamento del petrolio. Inizialmente i cittadini, vedendo venire giù materiale e personale tecnico dal nord, speravano poco nella possibilità di trovare lavoro. Quando però i primi lavoratori vennero assunti dall'Agef Mineraria, dalla diffidenza si passò alla speranza certa e viva di un migliore avvenire per tutti i lavoratori di Venezia. I sogni di questo Lago Salato quali sono? Tu hai visitato il paese e hai capito che gran parte dell'economia, della crescita economica è basata sulle estrazioni di petrolio e gas, tra l'altro l'Eni ha avuto un ruolo chiave in questo. Sono sempre legati all'estrazione questi sogni del Lago Salato? E poi cosa hai ritrovato della cantina di questo famoso zio, di quei sogni lì che si possono ritrovare adesso in Kazakistan? I sogni da cui bisogna stare un po' attenti sono quelli che ti offrono preconfezionata da acquistare e un po' i sogni legati all'industrializzazione e all'estrazione del petrolio, al progresso industriale hanno a che fare un po' con questo, no? E se io penso alle immagini che ho trovato nella cantina, ma anche l'archivio Eni, la cosa che ci fa un po' impressione è che, vedendoli oggi, è che immagini come il petrolchimico, il pozzo di petrolio, la strada nuova, il cemento, il palazzo grande, erano immagini che dimostravano la possibilità di sognare, no? Ed erano utilizzate in questo modo. Quelle stesse immagini, se oggi ti faccio vedere una ciminiera di un petrolchimico in riva alla laguna o in riva o a Taranto con la fia sopra, significano invece paura per il futuro, no? E questo cambiamento negli anni significa che c'era qualcosa in quei sogni che veniva venduto e non capito. E questo è un tema molto interessante anche oggi in Kazakistan, nessuno lo pone, perché perché bisogna, perché quella fiducia cieca a volte ti coccola e speri che semplicemente ti dia quella liberazione dalla povertà e dalle fatiche che speri e a cui sei disposto di accettare in maniera un po' spregiudicata, senza capire quali sono gli elementi di filtro. Ed è normale che sia così: quando a qualcuno viene dato uno stipendio maggiore e una casa migliore, ci va, appunto. Il problema è che chi offre questi sogni deve avere la capacità di essere responsabile nell'offrirli, invece questo non capita spesso. Radio24.it è sempre con te, anche in viaggio. Consulta la mappa del traffico aggiornata in tempo reale. Potrai conoscere la viabilità del luogo in cui ti trovi e avere tutte le info su code, cantieri e altre criticità. Clicca su Mappa e scopri il nuovo servizio su radio24.it. Radio 24. La passione si sente anche in viaggio. You've got to give a little. Indovina chi viene a cena. That's the glory of love. Abbiamo parlato di questo Sogni del Lago Salato che possiamo vedere, che potete vedere al cinema proprio in questi giorni. Tu sulla migrazione in sé hai riflettuto molto nel tuo lavoro, nelle pellicole che hai fatto, sia parlo di fiction ma anche di quasi docufilm. Mi aveva colpito molto Mare Chiuso, dove tu fai parlare, insomma, partendo da quella sentenza famosa che ci obbligava a risarcire alcuni migranti che avevamo respinto, facevi una tua riflessione, anzi poi sentiremo anche un pezzettino del film. Poi c'è stato ovviamente La prima neve, tutto il tuo cinema, mi viene da dire, si aggroviglia intorno a questo tema. Come mai? Perché la domanda è al contrario: io ho iniziato a fare cinema per raccontare queste storie, io non ho studiato cinema, non pensavo di fare regista, studiavo sociologia delle migrazioni e viaggiavo, soprattutto al di là dei miei studi, in direzione contraria rispetto ai flussi di migrazione, per cercare di capire come stava cambiando il mio mondo, perché io sono nato e cresciuto a Padova in un contesto molto monoetnico, in cui i miei compagni di classe erano tutti dello stesso quartiere, insomma. Ma piano piano il mondo stava cambiando e ho iniziato a viaggiare per capire cosa stava succedendo, e ho iniziato a viaggiare anche per capire che cosa c'era dietro ad alcune parole d'ordine di paura, di xenofobia che crescevano. E lì ho capito che poi bisognava raccontare le storie che incontravo e ho utilizzato uno strumento che amavo ma che non conoscevo bene. Piano piano poi questo è diventato cinema ed è diventato il mio lavoro. Quindi è partito dal tuo interesse per questi temi? Sì, credo che sia un tema indubbiamente ormai, senza sia diventato retorico dirlo, tautologico, è indubbiamente un tema centrale per capire in che epoca viviamo e capire in che direzione andiamo. Non è il problema in immigrazione, è la trasformazione del mondo data al fatto che le persone non accettano più di stare ferme a casa nella parte sbagliata, provano a raggiungere la parte giusta. C'è stato La prima neve, c'è stato Io sono lì e poi dicevamo Mare chiuso. Sentiamo proprio un passo del film. Mesdames et messieurs, je déclare ouverte l'audience publique sur la recevabilité et le fond de l'affaire Hirsi et autres contre l'Italie. L'affaire a été introduite devant la cour le 26 mai 2009. Par 11 ressortissants somaliens et 13 ressortissants érythréens en vertu de l'article 34 de la Convention. سمعت بحر مالك تعبت عن كبديو وشو قرب شايف وش تفرح سمعك هاي كن صلوتنا قبرنا نزمرنا مزمرنا زمرنا لا ترى دا أنا بسلام حليفنا يا مالك. Le gouvernement est représenté par sa coadjointe Madame Copari et par Monsieur Albon Albenzio conseiller. Mare chiuso, Andrea, perché questo titolo? Perché ti sei appassionato a questa storia? Lo dicevi appunto, sono nati prima gli interessi sociologici quasi e poi l'idea di utilizzare il mezzo del cinema. Questa dei respingimenti è una storia di cui si discute anche adesso, una questione di cui si discute anche in queste ore. Tra l'altro pochi giorni fa proprio il Times ha ripreso una notizia che poi era stata in giugno pubblicata dal Guardian, di colloqui fra diplomatici per addirittura fare degli accordi con l'Eritrea, che insomma è una dittatura, per rimandare dei migranti. Perché Mare Chiuso? Cosa ti ha spinto a girare quel film in particolare? Mare Chiuso si inserisce dentro ad un percorso che è iniziato nel 2006 di ricerca e racconto attraverso su Lampedusa, Come un uomo sulla terra e poi Mare Chiuso, e poi si è completato con un lavoro dell'anno scorso che si chiama Come il peso dell'acqua. È tutto un lavoro che non parla dei viaggi dei migranti, parla delle politiche e delle scelte con cui l'Italia e l'Europa hanno pensato di poter arginare, hanno cercato di arginare, causando centinaia, migliaia di vittime, il flusso delle migrazioni. Quindi scelte molto concrete di appunto detenzione, deportazione nel deserto, costruzione di centri di detenzione in luoghi fuori dall'area di Schengen, come respingimenti in mare aperto, tutta una serie di manovre, di scelte che sono state fatte negli anni, che continuano ad essere progettate, che sono al centro della costruzione dello spazio di Schengen, causano però hanno delle conseguenze di vite umane. E quindi per capire che scelte sono, bisogna anche capire quali sono le conseguenze. È inutile, troppo facile appoggiare o meno le scelte di per sé, stando da questa parte, bisogna anche capire quali sono i prezzi da pagare e poi vedere se si è disposti a pagarli. Questi prezzi sono persone che diventano protagonisti delle memorie di un film come Mare Chiuso e degli altri film, raccontando che cosa significa quella scelta nelle loro vite. E allora sentiamo proprio un passo di Come il peso dell'acqua, un altro documentario di Andrea Segre, che inizia con questa immagine del mare, una soggettiva di un sommozzatore che si avvicina alla sagoma di un peschereccio di legno adagiato sul fondo del mare. Poi c'è la voce e l'immagine di Giuseppe Battiston che accompagna il racconto di tre donne del loro difficile viaggio dal paese d'origine alle coste italiane. E poi ancora l'intervento di Marco Paolini, che aiuta lo spettatore a capire le direzioni, i flussi, le barriere delle migrazioni verso l'Europa. E Paolini cita proprio anche quel muro in Bulgaria dove due giorni fa, lo avrete letto sui giornali e ascoltato nei nostri radiogiornali, è stato ucciso un migrante la cui colpa era tentare di arrivare in Europa. È un documentario di un anno fa, anche qualcosa di più, ma è estremamente di attualità. Sentiamo. Io non ce la farei ad andare là sotto a prenderli. Quel mare fa paura. Però bisognava andare a prenderli, non potevamo lasciarli là sotto. Anche se Dio solo sa quanti ne abbiamo lasciati là sotto. Ma perché uno rischia di finire così? Cioè, perché nel mondo d'oggi uno si mette in testa di diventare clandestino, illegale, e di infilarsi in un barcone come quello? Io sicuramente non lo posso capire, perché se voglio andare da qualche parte prendo un aereo o un treno e probabilmente, anzi sicuramente, pago di meno e lo faccio legalmente. Ma allora perché uno deve pagare di più, diventare illegale e rischiare di morire? Io le propongo di usare praticamente una mappa di tipo catastale, anche se non c'è molto di significativo in fatto di muri. Glieli elenco per scrupolo. La Spagna ha costruito intorno all'enclave di Ceuta e Melilla due muri, uno di 8 e uno di 12 chilometri, Sono doppia rete metallo, alta 6 metri, tipo Guantanamo. La Grecia ha costruito qui, lungo il fiume Evros, 12 chilometri di recinzione alta 3 metri. Ma l'ultimo grido è fatto di muri. È il nuovo muro bulgaro, 33 chilometri al confine con la Turchia. E secondo il ministro degli esteri della Bulgaria, questo è solo l'inizio di un muro molto più lungo, oltre 150 chilometri, per fortificare il lato est di quel paese. 12 più 33 più 20 non è granché, considerato che la frontiera terrestre dell'area Schengen è di 13.454 chilometri. E poi c'è tutta l'area di frontiera marina. Anche mettendo in fila muragli cinesi non si può fortificare tutta, si può pattugliare. Sì, però sarebbe meglio che non arrivassero. Tutti vogliono sopravvivere, tutti vogliono migliorare la propria vita, ma molti non hanno nessuno che li aiuti. E se anche la loro famiglia è povera, il padre è povero, la madre è povera e nessuno riesce ad aiutarli, allora cercano di trovare una soluzione da soli e decidono di affrontare questo viaggio così pericoloso. Durante il viaggio dicevamo: ma non finisce mai, stiamo andando incontro alla morte. Il viaggio va avanti, ma sembra non finire mai. Verso la fine della traversata, 10 somali sono morti. Avevamo sete e fame. Poi siamo finiti nelle mani dei libici. I libici ti perquisiscono e cercano se hai dei soldi. Io ero lì ferma e pensavo: come posso salire da una barca minuscola ad una nave molto grande? Erano molto distanti. Una donna prima di me è caduta e si è rotta la gamba. E un'altra donna, 5 persone prima di me, le è caduta la borsa, ha provato a prenderla, ha preso una botta in testa e si è rotta le mani. Allora io ho iniziato a pensare: Dio, tu sei onnipotente. Hanno preso i miei figli davanti ai miei occhi e li hanno lanciati, lanciati così. Forse si vede nel video. Questo tema del controllo delle migrazioni, delle politiche securitarie di contrasto, è un tema su cui continuerò a lavorare, sto continuando a lavorare sia a livello di ricerca che a livello di preparazione di un nuovo progetto di film, però mi piace anche molto ogni tanto perdermi in altre direzioni e il tema del rapporto tra vita umana e la dimensione economica che eccessivamente a volte pesa sulla vita umana è un tema che mi interessa e che su cui continuerò a lavorare anche. Ecco, Il sogno del lago salato, che è stato ben accolto, citavamo prima i festival e anche il pubblico in sala, ha avuto una distribuzione facile oppure ha avuto difficoltà? E in genere i tuoi film che hanno queste tematiche si riescono a finanziare e poi a distribuire? In che maniera? Incontri delle resistenze? Il pubblico come reagisce? Fare una commedia in cui lui e lei si amano e lei lo tradisce facile sicuramente, e non c'è un dubbio che il mercato è più pronto e disponibile ad accettarlo, però io, come ti dicevo, sono arrivato a questo mestiere perché avevo delle cose importanti da raccontare e i risultati ottenuti in questi anni sono comunque preziosi. I film hanno ottenuto migliaia di spettatori, sono andati in bene le televisioni e continuano ad avere una circuitazione che comunque appartiene adesso ufficialmente al mondo della sala ufficiale. Qualche anno fa, quando ho iniziato, era impensabile. Oggi un film, se non esce in alcune sale, un film documentario, se non esce in alcune sale, ti dicono: ma come mai è uscito? 10 anni fa non c'era neanche il dubbio che non poteva uscire, appunto. Quindi c'è stata sicuramente una trasformazione, e devo dire che è importante la partnership che in questi anni c'è stata con il mio produttore Francesco Bonsembiante, e Aiole Film, l'esperienza di ZAB, che è l'associazione con cui produciamo e distribuiamo i documentari, è stata un'esperienza di indipendenza importante. E non da ultimo devo dire che Rai Cinema negli ultimi anni ha iniziato con coraggio ad appoggiare anche questo tipo di cinema, e credo che sia fondamentale che la televisione pubblica abbia attenzione per un cinema che mi aiuta a pensare e non soltanto a divertirsi. Grazie ad Andrea Segre per essere stato con noi questa sera, buona serata. Grazie a voi. E per questa settimana è tutto, io vi do appuntamento a sabato prossimo con Indovina chi viene a cena, sempre alle 23. In studio oggi per l'aiuto in regia e Peter Bescapello, ringrazio tutti voi per l'ascolto, a sabato prossimo, arrivederci, ciao.